il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio parliamo oggi di fotovoltaico perché è stata approvata il 31 gennaio una delibera del Consiglio regionale del Veneto in tema di individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. In realtà parliamo di fotovoltaico dal punto di vista dell'agricoltura. Con questo provvedimento la Regione attua le linee guida emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Ecco, stiamo parlando di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza fino a 6 kW compreso, mentre quelli sotto questa quantità rientrano nella categoria dell'autoconsumo e quindi sono esclusi da questo provvedimento. Dicevo che ne parliamo dal punto di vista dell'agricoltura perché abbiamo come ospite Mauro Giuriolo, presidente della Coldiretti di Rovigo. Perché Coldiretti è stata tra le organizzazioni che maggiormente hanno premuto sulla regione perché mettesse un freno alla sorta di deregulation nel settore di queste energie. Inoltre nella zona di Rovigo ci sono degli impianti molto importanti ed è forse la zona che più è toccata da questo problema del consumo del suolo ad uso agricolo rispetto ad altre aree del Veneto. Ci conferma che questa è un po' la situazione del Rodigino? Lei ha fotografato bene quella che è la situazione attuale, chiaramente questa è una conclusione, speriamo definitiva, di un percorso difficile che inseguiamo dal 2009, dove in provincia di Rovigo molte multinazionali hanno iniziato ad acquistare terreni a prezzi smisurati per effettuare impianti fotovoltaici di dimensioni enormi. Questo è stata veramente una piaga che ha inciso, che ha creato una ferita fortissima sul nostro territorio, oltre che da un impatto visivo fortissimo anche da un impatto economico, perché molte imprese agricole hanno venduto i propri terreni, hanno chiuso la propria attività agricola chiaramente, e l'intero indotto poi è andato penalizzato. Uno degli impianti che è stato fatto, mega impianti in provincia di Rovigo, è un impianto del Comune di Canaro che supera i 170 ettari di dimensioni. Credo che il risultato importante politico, e quindi con la conclusione da parte del Consiglio regionale Veneto, sia fondamentale, ahimè forse un po' tardivo, perché la giunta regionale già ad agosto del 2012 aveva sostanzialmente deliberato, e poi c'era già stato l'avallo della terza commissione consigliare per cercare di normare questi impianti fotovoltaici a terra. Nel frattempo, ahimè, abbiamo dovuto ancora ricorrere, ancora cercare di opporci a quelli che sono altri tre impianti che sono stati proposti sul nostro territorio polesano, in tre comuni, quello di Adria, quello di Fieso Umbertiano e quello di Pincaro, con due elettrodotti annessi, elettrodotti di 7-8 chilometri che vanno ad interessare più di un centinaio di aziende agricole, quindi creando anche delle ferite e degli impatti forti sul nostro territorio, impedendo poi alle aziende agricole anche di andare a fare migliorie, fare irrigazioni, investimenti e sicuramente svalutando non poco quello che sono i nostri terreni. Da un punto di vista politico, ecco, da rilevare è che comunque si chiude questo capitolo difficile e finalmente si mette in risalto la priorità dell'andare a produrre energia nei terreni agricoli solo per quelli che sono impianti fotovoltaici funzionali all'attività agricola e non ahimè funzionali al business e alle speculazioni di multinazionali. Non è questo business del fotovoltaico qualcosa che viene a creare un sostegno magari a delle aziende agricole che diversificano un po' la propria produzione? Quindi si tratta di aziende che hanno acquistato terreni e che quindi li hanno tolti all'agricoltura senza alcun beneficio poi per imprenditori agricoli. Esattamente, proprio così. Noi come Coldiretti da anni proponiamo che gli impianti fotovoltaici siano funzionali all'attività agricola, che siano connessi all'attività agricola, perché la multifunzionalità dell'azienda permette anche oggi di produrre energia, ma il taglio massimo che abbiamo proposto è sempre stato quello dei 200 kW a terra massimi e soprattutto degli impianti su tetto, perché era un'opportunità forte per l'azienda agricola, anche per andare a smantellare i tanti metri quadrati di amianto che tutt'oggi sono presenti, e quindi dando un virtuosismo e utilizzando questo percorso economico per fini anche importanti. Ahimè questo non è successo, anzi velocissimamente questi impianti hanno saturato tutte le linee del territorio polesano e hanno bloccato poi realmente tutti gli impianti anche su tetto, perché sostanzialmente le linee elettriche non riuscivano più a supportare, certo, altri kilowatt introdotti. Si tratta di terreni quindi agricoli di pregio. Volevo ricordare un attimo cosa dice la delibera. I siti identificati come non idonei sono i siti inseriti nella lista UNESCO, come le grandi città d'arte del Veneto, la rete Natura 2000, quindi tutta una serie di siti di importanza comunitaria, siti aree umide, aree naturali protette come i parchi, ma poi ci sono anche inserite le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità e le aree ad elevata utilizzazione agricola. Quindi che cosa viene protetto da questa nuova delibera? Cioè c'è una protezione reale e efficace oppure no? Sì, sicuramente una protezione reale molto efficace, perché andiamo a proteggere quelle che sono le culture, le eccellenze del nostro territorio, in particolare la DOP per l'aglio bianco polesano e le tre DOP sull'insalata di Lugia, sul radicchio di Chioggia e poi sul riso del delta del Polesine. Questo è fondamentale perché sono territori, sono terreni che sono prestati a vocazioni specialistiche, quindi a culture di altissimo pregio che sicuramente vanno tutelate in tutti i modi. Certo, facciamo una breve pausa, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may carry, this ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our truth may vary, this ship Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Mauro Giuriolo, presidente di Coldiretti Rovigo, e stiamo parlando di una delibera della Regione Veneto che limita la realizzazione di impianti di fotovoltaico nelle aree agricole. Ci sono dei dati su quanto terreno è stato consumato e poi anche se la situazione che c'è a Rovigo si riscontra anche in altre province del Veneto? Dati precisi non li abbiamo, sicuramente sono svariate centinaia di ettari, almeno per gli impianti che sono più grandi, si parla di 300-400 ettari di superficie insediata. Chiaramente se questi megawatt fossero stati distribuiti in piccoli impianti di 200 kW avrebbero significato un aiuto importante alle aziende agricole, aiuto al reddito delle aziende agricole, perché di un'opportunità poteva trattarsi se spalmata su tutto il nostro territorio, sulle 7.000 imprese agricole che ci sono nel territorio pulesano. Parlavamo prima di biogas, anche questo è un tema importante, anche questo può essere un aiuto per aziende, soprattutto che fanno allevamento. E abbiamo proposto come Coldiretti un piano energetico regionale già un anno fa, questo per andare a regolamentare tutti gli insediamenti energetici. Tra questo ci sono anche i biodigestori, i cosiddetti impianti a biogas. Chiaramente importante, perché abbiamo visto un proliferarsi in maniera smisurata di mega impianti, quindi impianti fino ad un megawatt che vanno ad occupare, sostanzialmente ad utilizzare anche fino a 300 ettari di mais coltivato, quindi grandi superfici. Quello che noi chiedevamo e che stiamo chiedendo è che venga salvaguardato soprattutto l'utilizzo del mais per produrre cibo, per produrre latte, per produrre carne, e eventualmente che gli impianti a biogas siano funzionali e quindi connessi all'attività zootecnica, o che possano utilizzare degli scarti di lavorazione delle aziende agricole, e magari che siano o possono utilizzare degli scarti, dei sottoprodotti vicini in prossimità degli impianti, questo per evitare anche una emissione di anidride carbonica per gli spostamenti e per i trasporti. In questa settimana avete un po' fatto conoscere un dato che riguarda i giovani in agricoltura nella provincia di Rovigo, perlomeno tra gli aderenti alla vostra organizzazione. Sono raddoppiati gli under 40, cioè i propri titolari di azienda agricola sotto i 40 anni. Come mai questo piccolo boom, comunque questo ritorno all'agricoltura rispetto per i giovani? Perché l'agricoltura rappresenta oggi una vera possibilità economica, una vera opportunità per dei giovani, magari diplomati, magari laureati, che vogliono scommettere in un settore veramente strategico per il nostro paese, per la nostra economia. E abbiamo rilevato quelli che sono i dati della nostra provincia, e sono dati veramente entusiasmanti, perché già avevamo visto dai rilevamenti ISTAT che la superficie media delle aziende agricole polesane è raddoppiata sostanzialmente rispetto a 10 anni fa, andandosi ad attestare oltre i 14 ettari di superficie media aziendale, quasi il doppio rispetto agli altri territori della regione Veneto. Sicuramente ancora più interessante è il dato che lei ha detto riguardante i giovani, quindi non solo il dato puro che è raddoppiato significa che l'agricoltura è una vera opportunità per il nostro paese, e che finalmente dopo tanti anni di buio ci sono giovani laureati, diplomati, che ritornano alle aziende, o meglio acquistano aziende o mettono in campo idee, magari con agriturismi, magari con vendite dirette, per valorizzando magari alcuni prodotti del territorio, andando a creare un'opportunità economica vera e non solo virtuale su quelle che sono così la realtà economica del nostro paese, del nostro territorio. Bene, lo speriamo. Allora, quindi salutiamo con questa buona notizia con piacere e la ringraziamo. Grazie a voi. Passiamo adesso ad alcune notizie. Un seminario per tecnici apistici si svolgerà sabato 23 febbraio dalle 8.30 in Corte Benedettina Legnaro. Sarà tenuto dal Centro Regionale per l'Apicoltura in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e Veneto Agricoltura. È realizzato nell'ambito delle attività di aggiornamento riservate ai tecnici iscritti al Registro Regionale di Tecnici Apistici del Veneto. Durante l'incontro saranno affrontati aspetti che vanno dalla gestione igienico-sanitaria dell'allevamento alla qualità delle produzioni apistiche e verranno presentati i risultati del progetto BINET con il monitoraggio degli alveari e dello stato di salute della popolazione di api nel Veneto. Simone Maggio e la moglie Romina, titolari del ristorante Face Cook di Chioggia, hanno lanciato lo scorso 7 febbraio un nuovo piatto, la padella ciosota. Si tratta della proposta di un piatto unico, formato con i prodotti del territorio, radicchio rosso di Chioggia IGP, riso, cozze, i fasolari, le vongole veraci, i lupini, gli scampi, la canocchia, le capassanta, i canestrelli, mazzancolle, calamari, la rana pescatrice e le seppie. Tutti questi ingredienti provenienti dal mare e dalle terre di Chioggia e dintorni costituiscono un piatto tipico che si lega alle città lagunare e che si spera verrà adottato anche da altri ristoratori della zona. Il prezzo per questo ricco piatto a base soprattutto di pesce sarà di circa 20 euro. Ha preso il via con febbraio il concorso per immagini Seguimi, io non spreco, la tua immagine per un futuro sostenibile, che rientra nell'ambito del progetto Ruraland della Rete Rurale Nazionale. Obiettivo specifico del concorso è sensibilizzare le giovani generazioni sul tema dello spreco in tutte le sue declinazioni, soprattutto per quanto riguarda l'uso di risorse naturali come l'acqua, il suolo e il paesaggio, ma anche sul fronte dell'energia e della biodiversità. I partecipanti dovranno rappresentare il tema dello spreco attraverso un'immagine fotografica o un disegno. Il concorso è aperto a persone sotto i 40 anni di età e ha come termine ultimo per la presentazione delle opere il 15 aprile. Per informazioni per partecipare basta accedere al sito internet www.ruraland4.it. Con questo è tutto anche per questa settimana, vi diamo appuntamento alla prossima e potete riascoltare questa trasmissione sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.